Amici di Ramtime, buonasera, bentrovati a OGM. No, che ottimisti, non possiamo più essere ottimisti dopo ieri, perché siamo oltranzisti, gastricamente maleducati come da sciacquone. Sono con me, e li saluto subito, i sodali di oggi, che sono uno dei padroni di casa, Marco Gualdi. Ciao, stiamo preparando, ciao a tutti, stiamo preparando l'inizio della partita qui dal terzo piano, le squadre si stanno scaldando e fra poco saranno, c'è qualche minuto di ritardo, vediamo un cane parcheggiato davanti alla frutteria che sta di fronte alla nostra postazione. Ci sono sempre i soliti 5 cassonetti differenziati, più quelli del negozio che sono stati accodati agli altri, e c'è anche una busta della immondizia color verde acqua appoggiata per terra, segno di inciviltà che comunque non verrà tolta, penso, prima del prossimo passaggio dei netturbini. Per cui diciamo che siamo tutti pronti a volo studio appena cominciamo con il fischio d'inizio. Approfitto quindi per continuare con i saluti. Grazie Marco intanto dal Cibali. Saluto il nostro consulente scientifico tecnologico videogioco letterario preferito, Carmine Puccio Console. Io vorrei dirvi che questo podcast non va in onda con il favore delle tenebre, a differenza di altri. Assolutamente, lo conferma anche il nostro nomi e cognomi. Bravo. Ce lo comunica quindi anche, ce lo confermerà il nostro consulente psicopratico di fiducia, il nostro Lobster Frontale. Mi piace perché lo mischio sempre. Sì, ma mi raccomando, fai anche nomi e cognomi dalla mia parte. Anch'io non lavoro con il fuori delle tenebre, e chiropratico lo dice a tua sorella. Psicopratico? Quale chiropratico? Non mi permettere mai. Ciao Tark, pure io c'ho un ictus, mi sa. A posto. Oh, no, noi oggi faremo nomi e coglioni e nomi e coglioni, ok. Nomi e cognomi, ma in realtà li ha già fatti chi di dovere, quindi noi non possiamo fare altro che prenderne atto. Poi magari parleremo anche di certi, come dire, certe esternazioni di certi giornalisti che, vabbè, insomma, lo saprete meglio di me, però adesso ci arriviamo. Quindi ragazzi, a parte Marco Gualdi che è al Cibali e quindi vive nel suo mondo parallelo e ci informerà delle belle cose della ridente Monterotondo, per noi altri il tema di oggi, il tema portante, per forza di cose, è quello che è successo ieri. Cosa è successo ieri, Carmine? Un sacco di roba, molta della quale è divertentissima. Vabbè, in pratica ieri, stranamente non all'ora di cena, con meno preavviso, abbiamo avuto l'ennesima diretta di Conte a reti unificate e a social unificati, visto che era su Instagram, su Facebook, un po' ovunque. Ha illustrato quella che è l'inizio della fase 2, sostanzialmente fino a maggio non usciremo di casa. Cioè, come la fase 1 ma maniche corte, come diceva un meme. Esatto. E con le librerie aperte, quindi se avete bisogno di leggervi qualcosa potete uscire e andarvi a comprare un libro rigorosamente rispettando. No, mi spiace, ma credo da fonti che lui si riferisce alle librerie grafiche, per cui no, gli scaffali d'IKEA, penso che siano le librerie grafiche, per cui c'è, cioè, l'inculata, cioè, secondo me c'è l'inculata, perché vuoi mettere quanto è più bello il presidente Conte in ray tracing? Sempre una questione interpretativa, allora sì, vabbè. Ma io difatti da quando ho la 2060, la 2070 RTX, Conte in diretta lo vedo molto meglio, cioè mamma l'illuminazione mia sui cani. E lo voglio vedere anche in realtà virtuale lui, cioè lo voglio proprio toccare, lo voglio spettinare in realtà virtuale, sai com'è. Ma comunque ragazzi, per favore, secondo me non si spettina, c'è una texture unica per il capello. No, sì, quello è Berlusconi. Berlusconi c'ha un poligono installato in testa. Ma io credo anche lui, non c'ha i singoli poligoni, cioè non c'ha i capelli quelli. Vabbè, ragazzi, Berlusconi è stato disegnato in 320x240 e non è mai stato aggiornato. È stato strecciato. Esatto. L'upscaling non funziona molto bene su Berlusconi. Ci fanno sì una remaster. Il passaggio tra 4 terza a 16 noni, lui è vero. Infatti. Non a caso, se vi ricordate, Mediaset ha fatto resistenza passiva per anni prima di passare a 16 noni in Italia. Non ricordo, non rimembravo. Sì, ho tipo detto prima del digitale terrestre era, vabbè. Per un periodo anche dopo il digitale terrestre hanno continuato a trasmettere in 4/3, soprattutto i canali canonici. Quelli nuovi nati post digitale terrestre sono nati in 16 noni, ma Canale 5, Italia 1, Rete 4 avevano ancora troppi contenuti nativamente girati in 4/3, peraltro nemmeno anamorfico, quindi non lo potevano recuperare. Quindi vabbè, comunque stiamo parlando di cose che non sono proprio nostre. Fatemi salutare gli amici in chat, in particolare c'è Girasole. Ciao Giro. E gli altri fanno finta di niente. Chi ve lo fa? Tacciono. Beh, anche un orario un po' particolare. Secondo me il sabato pomeriggio, prima di Pasqua, chi sta in cucina a spadellare, chi sta a fare riposino, chi gli è preso un ictus. Ogni riferimento è puramente casuale. Stanno prendendo, dovrò accettarmi questa situazione. Stanno preparandosi per la Pasquetta di lunedì, Pasqua e Pasquetta, tutti quanti allegramente fuori al bar. Balcone. Barcone. Sulla falla, fuori. Oh, guardi, fuori. A proposito, tu che ci narri sempre le vicende dal tuo balcone, cosa ne farai domani di questo balcone? Al balcone virtuale? No, niente, ci sono i vasi. Penso che utilizzerò il balcone come al solito per poggiare i vasi. Cioè, non ci farai una Pasquetta? No, è troppo piccolo per fare Pasquette. Ah, stai messo come me, praticamente. La partita qui è cominciata, il cane è ancora appoggiato davanti al negozio, si muove, quindi non è un cane impagliato. Qui nella redazione è venuto il dubbio, forse è un cane impagliato, invece si è girato, si è voltato ed è vivo. E ha detto: impagliato tua sorella, mi sembra giusto. Oppure è caricato a molla, come si diceva una volta. Nel frattempo è arrivato un Mitsubishi molto grande che ha parcheggiato di fronte al negozio di elettrauto che ben conosci, non facciamo però pubblicità. No, Rolandone, come no? Ah, no, non ci pagano. Non cognomi oggi, senza esclusione. Anche se non ci pagano, da Rolando, il famoso Rolando, quello che ti installa tutto quanto e ti fa pagare del Dio. Però a parte quello, c'è un signore sulla mezza, no, sui 60, no, sui 60, che passa con una piccola bustina di plastica bianca e un'altra bustina ancora più piccola, sembra un borsellino portacacca per cani. Ma non ha il cane, o forse raccoglie i suoi stessi bisogni, non lo sappiamo. Se lo fermano, potrà dire che ha portato a spasso il cane. Esatto, che è se stesso, cioè, stare. Una signora con la mascherina è uscita dal negozio ed ha prelevato il cane, potrebbe essere la proprietaria, o semplicemente il cane era stufo ed è contento di andare con chiunque, purché non lo lasciano lì davanti. Lobby, potrebbe essere questa cosa freudiana, cioè dire: io che mi immedesimo come essere in un cane, mi porto a fare il bisognino e mi porto anche il sacchetto. Ci sta? Ma Freud non c'ha secco no cazzo. Sì, era per dire qualcosa. Sì, mica parliamo di mamme, voglio dire. Sì, A parte le mamme, io solo ieri ho recuperato il video di Neurodrom delle mamme sincere. Madonna mia, me l'ha girato Simone. Io ho rischiato un incidente in macchina. Cioè, io stavo sbattendo con la macchina mentre lo ascoltavo. Ecco, credo di non averlo ricevuto, quindi provvedete, grazie. No, davvero, è come sarei io, probabilmente anche tu, anche Marco, come genitori. Cioè, le mamme sincere sono quelle che dicono palesemente: ma sto rompicoglione del figlio, cioè, oppure che con dei trucchi gli fanno fare i servizi in casa, oppure li mettono in delle gabbie. Oppure cioè le mamme non italiane, praticamente fanno scorreggi in giro, italiano. Accusando poi il figlio di aver fatto le scorreggi. Grande. Tremendi. Ragazzi, ci ha raggiunto Lucio Plantone. Ciao Lucio. E tra l'altro, ciao Lucio. Volevo dire questa cosa, perché Girasole ci sta raccontando, appunto, riferimento a quello che dicevamo prima, che stanotte si dovrà mettere a fare i dolci. E noi dopo in qualche modo parleremo un pochino di pastiera, perché la volevamo buttare un po' sul sociale e sull'inutile questa puntata, dopo aver blastato il blastabile. Però questa cosa della pastiera vegana, io non lo so. Cioè, al posto della ricotta il tofu fa un po' ridere, fa anche un po' paura. Anche perché, insomma, vabbè. Io no. Che vuoi fa? Io nel suo. No, ma per carità, io sono dell'idea che non serve, come dire, parafrasare le preparazioni in chiave vegana, perché ci sono tante ricette nativamente vegane che sono buonissime. È inutile stare a fare e passatemi il termine, la carbonara vegana, si fa un'altra cosa vegana buona e siamo contenti tutti lo stesso. Non è che bisogna, come dire, trovare il trait d'union tra due cucine che non si possono sposare naturalmente, secondo me. Vabbè, così. Però insomma non è un programma di cucina questo, su Runtime ce ne sono diversi. E a proposito di Runtime, fatemi dire una cosa: i follower aumentano, siamo arrivati a 2962, quindi il piccolo ma gratificante traguardo dei 3000 è piuttosto vicino. Approfittiamo per dirlo all'inizio, quindi, puntata, poi non lo diciamo, scusa, più. Scusa Walter, quindi non c'è la curva discendente? Cioè qui è una tragedia, non c'è la curva, quindi continuano, e qui è un macello. È perché evidentemente non abbiamo ascoltatori di quell'altra sponda lì, capito? E allora non ci defollowano. Beh, siamo fortunati. Dovremmo continuare a fare. Noi ci proviamo facendo programmi tutti i giorni per farci odiamo. No, niente, non ce la facciamo. Ma volevo dire questo, ragazzi. Volevo fare masochisti. Ma sì, ma sicuramente chi glielo fa fare? Noi lo diciamo sempre. Cioè, la domanda che poniamo agli ascoltatori di Runtime, in particolare di OGM, ogni puntata, di quelle canoniche, ma chi ve lo fa fare? Ma statevene a casa. Cioè, solo che adesso non lo possiamo neanche più dire. Statevene a guarda Netflix. Eh sì, guardatevi Netflix, cioè Amazon Prime, ci sono tante belle cose. Guardate di Pornhub, qualsiasi c'è. Niente. Godetevi le serie in lingua originale perché cominciano a scarseggiare i doppiaggi. Cioè, voglio dire, ce ne rivedete, vi abituate. Dicevo, volevo fare questo piccolo appello. Mi concedete questo momento per ricordare a tutti gli amici. Simone lo spiega spesso, in questo periodo di crisi ovviamente Spreaker ha perso la sua monetizzazione a causa del fatto che ci sono meno inserzioni per ovvi motivi, e noi in qualche modo, che abbiamo da sostenere ogni mese delle spese vive per tenere acceso questo servizio, vi chiediamo, se vi va, di prendere in considerazione e darci una mano. Come potete farlo? In due modi. Il primo è patrocinarci appunto su Patreon con una piccola donazione mensile automatica. Come dice sempre anche Simone, 2-3 euro, quello che volete e quello che potete. Il consiglio è: non donateci un euro, perché è una cifra che viene erosa completamente dalle revenue, non mi viene in italiano, aiuto, dalle commissioni che deve prendere la piattaforma. Quindi voi spendete un euro, a noi non arriva nulla, e quindi non avete risolto, diciamo, non siete riusciti a darci una mano malgrado lo voleste fare. Alternativa: una donazione a tantum, se volete, c'è sempre il nostro PayPal, quindi paypal.me/runtimeradio. Mi raccomando, Runtime Radio, perché Runtime è un'altra cosa. 1 euro, 5 euro, 10 euro, quello che potete, se potete. Altrimenti vi vogliamo bene lo stesso. Insomma, vanno bene anche donazioni in dolci, in tè, in prodotti della natura in generale. Salutiamo anche Ciro, che ci ha raggiunto e ci dice Barkam. Barkam anche a te. E salutiamo anche il buon Simone Pizzi, che in questo momento qui nelle veste di ascoltatore, però se vuole ci può raggiungere quando vuole, come fosse casa sua. Ragazzi, allora, ve la sentite di entrare nel merito? Dipende quanto è grande sto merito, cioè se ci entro bene, non lo so. Merito, allora, era l'appretto col manico, non so se e vabbè, insomma, aveva iniziato già a dirci qualcosa prima Carmine. Cos'è successo? Sì, ieri c'è stata questa diretta di Conte, dice ne fa una ogni quarto d'ora. Fa una, sì, ogni quarto d'ora, quindi siamo abbastanza abituati, di solito la fa all'ora di cena, così c'è il tempo, sì, di dire la pizza. Diciamo che cerca di fare quello che facciamo noi, fa le dirette per passare il tempo, c'è un po' più di follower. No, spesso si sovrappone a noi in un evidente tentativo di sottrarci audience. Infatti, comunque sì. ieri sera è andato in onda, ha spiegato quali sono i nuovi provvedimenti in corso di scrittura, perché in realtà quando li annuncia non sono ancora stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, a volte neanche hanno una forma definitiva. Lui, infatti, questa cosa non l'abbiamo mai capita. Sì, è strana, però diciamo, io una razio l'ho trovata parlando con il, parentesi aperta e chiusa, con un mio cliente che fa il commercialista, che dice: dirlo prima spesso aiuta noi a portarci avanti, nel senso, se dice guardate che sposteremo le scadenze fiscali, però ci sono i tempi tecnici di pubblicazione in gazzetta eccetera eccetera, noi sappiamo che è inutile che facciamo i pagamenti in anticipo, magari aspettiamo il giorno stesso per essere sicuri, e se sono stati rinviati spieghiamo ai nostri clienti che magari possono aspettare qualche giorno per fare i pagamenti. Quindi a volte un senso questa cosa ce l'ha pure. No, ma questo comunque va bene, però fallo quando hai la bozza definitiva del decreto, non quando non hai ancora deciso di preciso cosa ci scrivere dentro, perché sennò poi ti esponi a critiche, a riscritture, tutto quel casino. Che è successo più volte, infatti. E comunque ha parlato questa volta di roba che non ci tocca in maniera assolutamente diretta, tranne il prolungamento della quarantena, però ha cominciato a parlare anche di quello che è il tavolo da gioco europeo. Credo che tutti quanti vi siate letti i giornali, anche solo in forma digitale, in questi giorni. Sapete che c'è una forte discussione tra due blocchi di stati. Il primo, quello in cui siamo noi, in cui ci sono Italia, Spagna, Francia, Grecia e altri, tra l'altro forse i paesi più colpiti dal quelli che vengono chiamati esatto, pigs, no, cioè Portogallo, pigs. Irlanda, Italia, Grecia e Spagna. Però la Francia generalmente ha sempre fatto asse con Berlino, questa volta no. Diciamo i paesi del blocco meridionale, mettiamola in quest'ottica, anche sempre terroni, tutto vero, sempre terroni. Noi terroni maledetti a livello europeo, contro un blocco più nordico, in realtà non capeggiato tantissimo dalla Germania quanto dalle posizioni più intransigenti degli olandesi. La discussione, e qui si scopre che l'Olanda è un'Europa, perché fino a mo no, vabbè, è uno dei paradisi fiscali interni all'Europa insieme ad alcune zone del Regno Unito. Basta. Campari è diventata olandese, pare anche Mediaset. Aspetta, scusa. L'altro paradiso fiscale non è proprio del Regno Unito, se l'irlandese no, sono incazzano. No, aspetta, sono le zone franche all'interno del Regno Unito. Ah, sì? Vabbè, è una discussione complicata, poi okay. Magari ne parliamo un'altra volta, allora. No, in realtà, ripeto, la fortuna di avere un grosso commercialista tra i clienti barra amici che ti spiega come si potrebbe aprire un'azienda, insomma, mi ha permesso di approfondire alcuni argomenti. E poi magari lo facciamo uno speciale, perché interessante. Magari lo chiamiamo, perché okay. Si presta volentieri. Ah, perfetto. Io aprirei proprio l'azienda. No, la madre. Apriamo l'azienda mentre ce lo spiego, noi la apriamo l'azienda. Ma è che dobbiamo fare un tutorial proprio come approfittare dei paradisi. No, ci sta, figa. Scusate, una bella runtime LTD a Panama. No, Panama no. No, è fuori moda, ok. Sì, è diventata. Comunque interrompo lo studio velocemente, perché la vicina di casa di Rimpettaia, che è il terrazzo, quella praticamente per intenderci, che dove hanno provveduto al rifacimento della facciata con un colore con il resto del palazzo, stava facendo una telefonata praticamente ad alta voce, sfoggiando dei guanti di gomma verdi che forse potrebbero non essere regolamentari. Credo che infatti a bordo campo ci siano delle discussioni in merito, probabilmente non sono guanti regolamentari. Ottimo, grazie Cibali. Volevo leggere il contributo di Lucio, che dice: l'Olanda, a parte l'Olanda, dice odiosissima, gli altri sono i primi della classe e purtroppo non puoi dirgli nulla. Poi anche la Germania fa cavolate, ma le sa nascondere. Lui dice: vedi Deutsche Bank. Io aggiungo anche: vedi lo scandalo che poi è emerso proprio in maniera prepotente della Volkswagen, che è un'azienda privata, ma insomma. No, ma comunque, cioè, c'è stata questa battuta che tutto sommato era umor nero, però comprensibile. Quando c'è stata la questione che i morti in Germania erano molti di meno a parità di contagiati, qualcuno diceva: vabbè, si vede che il conteggio dei morti l'hanno affidato al contabile della Volkswagen. Ah, me l'ero persa. Agghiacciante, però legittimo. Però, sì. Vabbè, anche quella sarebbe una lunga discussione. Quindi comunque no, c'ha ragione Lucio, perché in pratica la discussione in questo momento si svolge tra questi due blocchi contrapposti, quello opposto al nostro, in questo momento capeggiato più dall'Olanda che dalla Germania, su come l'affrontiamo economicamente dopo. Diciamo che ci sono due scuole di pensiero in questo momento. Quella che sta prendendo piede in questi giorni, in cui l'Europa mette a disposizione una serie di fondi specifici. Ce n'è uno per la cassa integrazione europea, chiamiamola così, che si chiama SURE. Ce n'è un altro che verrà gestito dalla BEI, che è la Banca Europea degli Investimenti, che vi dovete immaginare come voi spesso sentite parlare, no? La cassa depositi e prestiti, che è un ente a maggioranza, cioè gestito dallo Stato, che è in grado di erogare determinate somme. Immaginatevi questa cosa a livelli più alti, quindi a livello europeo esiste la Banca Europea degli Investimenti, con dei fondi specifici per il sostegno all'economia oppure per migliorare la situazione sanitaria dei paesi più colpiti. Oltre a questi poi ci sono una serie di iniziative della BCE, che sono l'acquisto dei titoli europei sul mercato secondario dei paesi più colpiti, tipo ci hanno comprato 20 miliardi di euro in pochi giorni di titoli di Stato italiani, c'è la sospensione del patto di stabilità, c'è la sospensione del divieto di aiuti di Stato alle aziende, che ovviamente in questo periodo saranno sicuramente inevitabili, vi lascio immaginare. Quindi ci sono tutta una serie di operazioni in corso. A queste però si vorrebbe aggiungere uno strumento che viene chiamato in vari modi, viene chiamato Eurobond o Corona Bond. Che cos'è? Un bond è un'obbligazione, come i nostri BOT o BTP. Immaginate che invece che emetterli uno Stato, li emetta l'Unione Europea. Quindi non è più uno Stato singolo che fa il garante di questo buono che viene venduto, ma è l'intera comunità europea. Il blocco dei primi della classe, quindi Austria, Olanda, Germania and so on, si oppone perché comincia a vederlo come un inizio dell'europeizzazione del debito, cioè loro vogliono evitare che i soldi delle loro tasse coprano anche il debito di paesi che non sono i loro, quindi anche quelli con un deficit molto alto, come noi, come la Grecia, in parte come la Spagna, un po' meno come la Francia. La Francia stranamente stavolta si è schierata con noi, un po' perché ha avuto uno dei, diciamo, delle performance peggiori a livello europeo in ambito coronavirus, un po' perché Macron insiste molto sul principio di solidarietà tra gli stati europei. Beh, anche perché per altrimenti adesso, a che serve l'Europa? Appunto. Per adesso la linea prevalente è la prima, cioè che avremo dei fondi specifici finanziati dai singoli stati, ma con il fondo comune, gestiti a livello europeo. Quello che vorrebbero evitare più che altro gli stati del blocco nordico è che arrivino finanziamenti europei a pioggia, garantiti da tutti gli stati, e che poi alcuni stati, tra cui anche noi, possano poi spenderli in maniera che non c'entrano un tubo con quello che è lo scopo dell'emissione dei bond. Quindi magari invece che finanziare le imprese, invece che finanziare la ripresa della sanità, l'allargamento degli ospedali, la costruzione dei posti in terapia intensiva, per esempio li usiamo per abbassare l'età pensionabile, per fare una cosa a caso, o per rifinanziare il reddito di cittadinanza, sempre per dire una cosa a caso. Premetto che io in questo momento, dopo averlo contestato per tutta la vita, il senso del reddito di cittadinanza come strumento straordinario in questo momento ce lo vedo. Parentesi mia personale chiusa. Vabbè, tutto qui. Ma quindi andiamo invece al pezzo forte della giornata di ieri, perché quello che ha, come dire, quello che ha, posso dirlo in maniera molto, come dire, senza filtri, quello che ha drizzato milioni di cazzi in televisione ieri sera in Italia è stata una frase o un passaggio particolare. Ma scusa, non ci fermiamo soltanto alla questione andrologica, anche secondo me ha fatto bagnare decine di migliaia di donne, da quello che vedo su Twitter e Facebook. Ma quello Conte le bagna a prescindere, lo sappiamo, sì, perché piace. È un bel uomo. Quella che si è fatta il tatuaggio l'avete vista, raga? No, girateci le foto subito. Oh mio Dio, no. Interrompo rapidamente perché la donna di Rimpettai, vicina di Rimpettai, che telefonava è stata raggiunta un paio di minuti fa. Non ho voluto interrompere anche lui con un telefonino. Hanno cominciato a telefonare, non so, a vicenda, forse chiamavano a destra e manca. È partita una chiamata a qualcuno ad alta voce, hanno salutato gente e poi sono rientrati perché probabilmente avevano intenzione di farlo sapere a tutto il vicinato. Da voi lo studio. Grazie, okay, ragazzi, Cimbali. C'ho un ospite qua giusto per farvi. Saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao a tutti. Ma ti devi presentare, però. Dobbiamo fare nomi e cognomi qui. Oggi abbiamo detto. Mi chiamo Flavia, però il cognome anche. No, non c'è bisogno. Non ti preoccupare. E niente, sono la coinquilina di Framo. In questo momento non sono tanto coinquilina. Sono spollatina. Mannaggia, quando ti faranno tornare a casina tua? Sai che non lo so. Presto. Speriamo, dai. Sono presto, cioè, sì. Ma quindi, Motte, lo devi sopportare fino alla fine del lockdown? Esatto. Ciao. Allora. Gli tocca. Vabbè, ragazzi, dai, cioè, vabbè, dai. È peggio stare soli, fatevelo dire. Sì. Sì. Dici tu, è vero. Sì. Beh, comunque, ma siamo qui a farti compagnia, Walter, non ti preoccupare. Sì, sì, vabbè, ma ci stiamo sostenendo tutti a vicenda e questa è una cosa bellissima. Devo dire che anche grazie al runtime le giornate vanno via più veloci, quindi lo dico da parte in causa, ma anche da ascoltatore, e quindi grazie. Detto questo, volevo capire un attimino un commento che ha fatto Lucio, che si inserisce in questo discorso, poi arriviamo a parlare di Illo. Dice: la Francia deve lasciare l'Africa, che è la sua camera di compensazione finanziaria, entro 10 anni, e fino a qui. Poi mi dice, scrive: la Cina glielo ha detto apertamente, telati al più presto da qui. Ora, la domanda è, la Cina però a che titolo glielo sta intimando? Mi manca questo passaggio. Perché la Cina sta investendo tantissimo in Africa, un po' perché ci sono delle risorse naturali che gli servono. Esatto. Il grafene, ma no, non solo, perché il grafene in realtà non è tanto raro da giustificare una, cioè ci sono varie cose di cui ha bisogno la Cina che si trovano più facilmente in Africa o che non possono essere sintetizzate. Sta investendo tantissimo. Sì, esatto. Melange. No, scusate, che poi tra l'altro davanti al microfono c'ho un affare, il salvapi, quello tondo. E ogni volta me lo metto davanti alla faccia e continuo a dire: no, comincio a dire, vabbè, quell'obbida che lo capirà sicuramente. Voi non ci avete visto, noi non siamo qui. Vabbè, Gilda dei Navigatori nel cuore, sempre. Stavo dicendo: sì, stanno veramente investendo tantissimo e si sono fatti amici tantissimi governi. Non che ci voglia tantissimo a farsi amici governi in Africa, sì, certo. Ricco. Però diciamo, stanno facendo espansione economica e, diciamo, industriale anche verso quei territori. Ah, io avrei detto colonialismo, ma va bene. No, perché in realtà si stanno mostrando il volto buono della Cina per adesso. Poi, è la prima fase. Vabbè, comunque. Vabbè, i francesi, gli olandesi e gli inglesi ci sono arrivati direttamente coi fucili, quindi insomma almeno a sto giro gli stanno risparmiando i massacri. Il problema è che la Francia ha alcune zone dove c'è una sua valuta, sostanzialmente, quello che a volte chiamano franco africano, da cui però gli stati africani possono uscire quando gli pare, alcuni sono già usciti, stranamente dopo i primi interventi da parte della Cina. Quindi, al di là della questione che la Francia deve limitare le ingerenze sulle sue ex colonie nell'arco dei prossimi 10 anni, cioè è proprio il fatto che ora molti stati africani hanno dei nuovi partner commerciali con gli occhi a mandorla, quindi sarà interessante vedere come procede questa cosa. E lo scopriremo. E vabbè, però insomma, torniamo a bomba. Quindi abbiamo detto, c'è stata un'ovazione di ormoni femminili e maschili per Conte. Perché? Perché sulla questione su cui stavamo dibattendo c'è un elemento cruciale che si chiama Meccanismo Europeo di Stabilità, cioè il MES. Il MES lo avete visto applicato negli ultimi anni in una variante particolarmente dura sulla Grecia dopo la crisi del debito greco. C'è da dire una cosa: i greci un pochino se la sono meritata. Però vabbè, questo magari ne parliamo un'altra volta, del fatto dell'evasione fiscale endemica in Grecia e del fatto che l'unico tipo di azienda che fa utili in Grecia, cioè gli armatori, nella Costituzione greca sono esentati dal pagamento delle tasse. Poi c'erano tante altre cose carine, cioè tipo la pensione data alle figlie nubili dei dipendenti statali. Vabbè, però veramente dai, ci andiamo un'altra volta in Grecia, se no. Ok, scusate, avete ragione, mi sto perdendo. Quindi stavo dicendo. Al di là, no, un giorno di questi parliamo come Boris, cerchiamo il nostro futuro in Grecia. Stavo dicendo, che cosa è successo? Si parla del MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, che è una serie di aiuti che però sono vincolati a una serie di decisioni che poi gli stati devono prendere sul loro stato economico, più che altro spesso sulle politiche sociali, quindi riforme delle pensioni, della sanità, eccetera, eccetera. Secondo Salvini, noi l'avremmo firmato a nottetempo senza dire niente a nessuno. In realtà, che cosa è successo? Che durante i vari vertici dell'Eurogruppo è venuto fuori una versione. Aspetta, Salvini afferma che lo abbiamo richiesto, non firmato. Richiesto. In realtà non lo abbiamo richiesto. In realtà stiamo partecipando a una discussione che finora ha spuntato come risultato che chi lo chiederà nell'immediato futuro avrà accesso a una versione light del MES, cioè i soldi se li becca lo stesso, dovranno essere vincolati a degli interventi specifici sulla spesa di questi soldi, su come verranno impiegati. Ci sarà la supervisione, non si è capito bene ancora di chi, probabilmente sempre della Banca Europea per gli investimenti, e non saranno vincolati alla revisione delle proprie politiche interne una volta che l'emergenza sarà rientrata. Ovviamente, se si rimarrà all'interno del MES dopo che l'emergenza sarà rientrata, potranno essere applicate quelle che sono le condizioni standard, mettiamola così. Noi in realtà, a quanto pare, ad oggi non l'abbiamo richiesto. In più c'è un'altra questione: in realtà il MES, per come funziona senza l'emergenza coronavirus di mezzo, non è una novità, ma risale a 2011, quando al tavolo delle trattative sedeva la Lega insieme a Forza Italia e Alleanza Nazionale, governo in cui c'era tra l'altro anche la Meloni. È vero, qualità, ricordiamocelo, di un ministero che era stato creato apposta per una sorta di contentino, che era il Ministero della Gioventù, giusto? Esatto. Sì. Che non c'era prima e non c'è stato dopo. C'era Natangelo all'epoca, mi pare fosse Natangelo, che sulla Meloni aveva creato una striscia che si chiamava La Ministronza. Vabbè, lasciamo perdere. Non lo so, Natangelo mi ha bloccato, quindi io non ne parlo. Sì, no, ci ho litigato a volte anch'io, ma in realtà, vabbè, è una persona un po' particolare. Se fanno Lucca quest'anno, venitelo a sentire. Stavo dicendo, in realtà è vero che l'ultima votazione del Parlamento in cui quella forma del MES fu accettata dal governo italiano, al governo c'era Monti, ma è anche vero che in aula c'era Giorgia Meloni che votò a favore, Salvini non c'era perché era in Europa. Allora, attenzione, per quanto concerne la parte di votazione sul MES nel 2011, quello che mi sembra la ricostruzione più corretta, però potrei sbagliare, è che la Meloni si sia astenuta. No, cioè, se vai a vedere su Open Camera c'è cioè la registrazione dei voti e c'è cioè favorevole. E allora come non detto? Ve lo rigiro poi perché mi sono trovato il link ieri. Anche io si è astenuta. Ha fatto anche un posto che... No, perché ma guardate, in realtà ha votato. Aspetta, Marco, puoi ripetere cosa hai detto? Ho detto che lei ha fatto anche un post su Facebook, sai, di quelli dove non si possono, non c'è contraddittorio, quello che non fa mai nessuno. Dove praticamente lei afferma che quel MES lei non l'ha votata, non l'ha votato perché non gli piaceva, insomma, non l'ha votato. Così. La Meloni no, in realtà c'è anche un, vabbè, poi vi giro tranquillamente il link di Open Police dove c'è il ve lo giro da Next Quotidiano. Quindi comunque il succo qual è? Che continuano ad accusare il governo di aver preso dei provvedimenti che invece sono di vecchia data e sono stati presi praticamente tutti da loro. Non li abbiamo ancora accettati, né li abbiamo richiesti, ma in più la versione a cui accederemmo noi del MES in questo momento è quella specifica per l'emergenza coronavirus, quindi avremmo soldi vincolati soltanto alla destinazione d'uso, cioè li dovremmo usare per la sanità o in realtà si discute se anche come incentivi alle imprese, se non passerà la proposta del fondo gestito dalla BEI che sarà quello specifico delle imprese. Vabbè, sono tecnicismi. Comunque diciamo che accederemmo alla versione light, quindi non avremmo le condizioni normali del MES, ne avremmo soltanto il vincolo di destinazione d'uso di quei fondi. Ok, fatto sta che ieri cosa ha fatto Conte, perché poi arriviamo al sodo, anzi cambiamo voce, questa cosa la voglio sentire dall'epico racconto di Marco Gualdi. Cosa ha fatto Conte a un certo punto ieri? A un certo punto ieri ha fatto l'intervento molto tenue, che però c'era un asterisco che riportava ad un sottotitolo che era messo dietro praticamente alla coda del, insomma, si è rotto il cazzo, quindi come da ridor esatto, e praticamente ha detto: io stavolta, visto che è da tutta tutto ieri, tutta stanotte che ne parlate di questo MES che noi abbiamo firmato, che ci siamo svenduti il futuro dei nostri bambini, dei nostri cani e del macello, è giusto che io ora faccia nomi e cognomi e che sbugiardi Matteo Salvini e Giorgia Meloni, dicendo che questa cosa è falsa, è una menzogna, e che il nostro governo non trama nell'ombra insieme alle forze oscure di Voldemort, più o meno una cosa del genere. E dicendolo anche alzando un pochino la voce, avvicinandosi bene al microfono in modo che si potesse capire perfettamente ciò che stava dicendo. E lì apri di cielo, perché ovviamente c'è stato subito l'attacco di tutta l'opposizione, con a capo la Meloni e Salvini, scandalizzati per questa, praticamente per questa insurrezione, per questa quest'atto quasi di da parte di Conte, che ha esautorato il Parlamento, li ha accusati usando un mezzo improprio, insomma non l'hanno presa benissimo. Lobby, comunicazione da regime autoritario, che è quello che loro poi in qualche modo auspicano da mesi, sì, e da anni, e quello è il paradosso. Più che auspicano, come, cioè, io dico la mia, cioè, allora io devo fare, purtroppo c'ho sto problema che c'ho la deformazione professionale, quindi un minimo nei panni sudici di Salvini e di quelli impomatati, improfumati da Meloni, devo mettermi. Non ti mettere quindi, gli slip della Meloni però, Sempre si mette i slip però. Allora, io capisco tra virgolette il fatto di dire, cavolo, mi hai detto sta cosa in un orario strategico senza che io posso fare un contraddittorio. Questo lo posso anche capire, tra virgolette. L'unica cosa criticabile è questa, diciamo, sta cosa. Però porca puttana, cioè, non facciamo gli ignoranti, non facciamo i deficienti. Sappiamo buona parte del vostro elettorato a chi fa l'occhiolino, e più che occhiolino se li tira proprio con la mano. Sappiamo a chi aspirate, a chi chiedete i vostri voti. Non rompeteci il cazzo dicendo, cioè, per me va bene se una lamentela del genere la fai tu, la fai Puccio, la potesse fare pure, che cazzo, pure Renzi, quasi, scusate se ho detto Renzi, ragazzi, cioè, scusa, no, per dirvi, però la fascia protetta, ma voi Dio santo, no. cioè ma quale faccia in merda? Cioè, quella stessa cosa come dicono io, bella fa, cioè, siamo tutti fascisti col culo degli altri. Non rompeteci il cazzo. Tu sei l'ultima persona a poter dire che queste sono comunicazioni da regime dittatoriale, che cazzo di parole che hai usato. Poi che Conte alla fine sta davvero stato dando 10.000 cambi, ma non è che Conte lo stimo più di tanto, però, cioè, contestualizziamo la situazione, meglio che ci sia lui rispetto ad altra gente, tra cui loro, però, esatto. Di questo io ringrazio sempre Salvini, perché se non fosse stato per lui, sì, ora, ha fatto tutto lui, quindi grazie, sì, Matteo. Grazie Matteo di esserti torto dalle balle, e che davvero, cioè, ieri si vedeva proprio che era proprio esausto, che lui davvero si sta sudando per ottenere queste misure, per cercare di fare qualcosa con l'Europa, queste trattative, di non accettare il MES, di fare altro, e arriva un sti due strunzi a rompo cazzo, cioè, scusate se parlo in francese, cioè, a fare perché loro, cioè, piuttosto che, l'ha detto più volte, cioè, è un'emergenza nazionale, anzi oramai globale, cerchiamo un pochino di essere un po' più uniti contro sto nemico comune, di far fronte comune, di supportarci, altro, invece loro non fanno altro che comunque cercare comunque di aumentare il loro bacino d'utenza, diciamo così, anche in questa situazione. Lobby, credo che il termine tecnico si chiama spargere merda. Spalmare merda. Spalmare merda. Vabbè, gli esperti di comunicazione usano il termine avvelenare i pozzi. Dai, ecco, siamo qua. Comunque, però, ragazzi, correzione, alzo la mano. Allora, Meloni ha votato a favore nel 2011, non votò nel 2012 quando ci fu una ratifica in Parlamento. Esatto, e in più il problema è che quel giorno ci furono più votazioni e lei risulta assente a tutti. Quindi non sappiamo se era assente per fatti suoi oppure nella foga di non dare il suo voto al MES, che poi, figlia mia, te potevi presentare e votare contro se il problema era quello. Sì, ma infatti, se non sei andata a esprimere il tuo diritto di voto, dopo non ne puoi fare anche una bandiera. Non ci sei andata, hai una mancanza, perché sei stata assente quando il tuo ruolo ti impone, da parlamentare, sei pagata per farlo, di andarci. hai voglia. Ma difatti il problema, perché pagata per votare, scusa? Ah. Pagata per fare presenza in Parlamento. Ah, ah davvero? Ah ok, ah sì. Ero ironico, eh? Sì, ah scusa. No, io volevo dire una cosa invece a proposito di questo, si aggancia al discorso, insomma, del poi non per fare un parallelo diretto tra elettorato eccetera, no, ma Conte continua a fare appelli, dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare dei sacrifici oggi per poter tornare alla vita normale il prima possibile. Ebbene, invece abbracciare con più affetto domani, un cazzo ha detto. Vabbè. Sì, fatto sta no, che vabbè, notizia del Messaggero di poche ore fa, io non so se chi non è di Roma sa che arteria drammatica delle strade italiane sia la Pontina, che è questa strada stretta, lunga, peraltro anche piena di autovelox, che basta, diciamo, il traffico canonico per intasarla quasi tutti i giorni, soprattutto nella direzione che da Roma va verso Pomezia, Pratica di Mare, eccetera. Ora voi direte, vabbè, ma adesso c'è il lockdown, siamo tutti a casa, la Pontina non si satura. Invece sì. Perché a quanto pare oggi, è notizia delle 14 di oggi, la Pontina è bloccata in 10 km di code in direzione Pratica di Mare perché la gente si è fiondata e ovviamente le pattuglie della polizia stanno facendo controlli a tappeto. Ora io dico, io spero 10 che facciano anche chilometri a tappeto, cioè perché... Scusa. Regà, cioè la gente esce, cioè, c'è sta un cazzo, la gente fa, la è scema, si trasbatte il cazzo. Esce, esce. Purtroppo cioè, ragazzi, è così, cioè, se voi fate un giro, non dovreste, ma se voi fate un giro quando uscite, più che altro guardate intorno, vedete che la gente è piena di persone, perché se ne fottono, le persone se ne fottono. E poi sono quelle che fanno aumentare il contagio, perché dopo un mese che la gente dovrebbe stare a casa, i contagi dovrebbero diminuire qua. Cioè, mi pare che c'è una lievissima pressione, quindi c'è qualcosa che non va. La gente esce, la gente se ne frega. Ok, però insomma, voglio dire, dopo non ci possiamo lamentare se il lockdown diventa perpetuo. Dopo fai come la Meloni, che dice: ah, maledetti che siete usciti. Così, uguale. Ah, certo, cioè, perché poi il segreto è quello: far finta di essere nella parte dalla ragione. Sono gli altri. La colpa è sempre degli altri, è una cosa che funziona molto in Italia. La colpa non è la tua, ma è degli altri. Sì, sì, ma sicuramente noi stiamo pagando la nostra cultura, il nostro vulnus culturale. Non è che siamo diventati così dalla sera alla mattina, lo siamo sempre stati. Adesso i nodi vengono al pettine. Tra l'altro, Michela dice: saluto anche Davide Gatti che ci ha raggiunto in diretta. E Michela invece dice: spero che li multino davvero. Ma facciamo allora il discorso del regime: questi non li devi multare, a questi gli devi far contare i denti nelle mani. lo so, no, Robby, però quando c'è autoritario, punto... capisco. Ah, no, vabbè, finché non lo facciamo a orari di TG, questi non si possono categorizzare come discorsi da regime autoritario, dai, lasciamo stare. Il problema è che i nostri amati concittadini ci dimostrano di non capire con le buone certe cose. Ma a proposito di multe, non multe, l'avete vista ieri l'europarlamentare leghista, ovviamente, Francesca Donato, che ha fatto? Madonna, che genio. Che genio. No, ma il carabiniere che è andato a bussare è bellissimo, eroe. Sì, sì, sì. Cosa ha fatto? Ora te lo passo. È praticamente questa, sempre una... Sì, sì, sempre una protesta contro il MES, era in macchina e si sta facendo la diretta, non so, su Facebook. Su Facebook. Suonando il clacson in continuazione, questa protesta contro il MES, eccetera, eccetera, e si conclude con il carabinieri che le bussa e dicono: scusate. Lei ha lanciato questo flash mob di andare tutti i giorni a mezzogiorno in piazza a suonare il clacson per protestare. Ora, a parte il fatto che in lockdown vai a suonare il clacson a mezzogiorno di sabato per strada, te se bevono in 3 secondi, perché... Poi lei dov'era? Non mi ricordo, in un paesino di provincia, credo Mondello, di Palermo. A Mondello. Quindi voglio dire, neanche a dire che stavi, che ne so, a Piazza del Popolo a Roma, stavi pure in un posto che dovrebbe essere abbastanza quieto. Cioè, ti credo che arrivano la pattuglia, ti bussa. È arrivata la pattuglia e ha detto: favorisco il momento. Signora, ha finito di suonare. Scusate, adesso devo rispondere alla polizia. Devo chiudere la diretta perché devo rispondere alla polizia. Grande, grande. Alla fine non gli ha fatto niente, però. No, poi aspetta. Ma lei si è qualificata. ha riaperto la diretta dopo e ha detto che ovviamente hanno fatto controlli super incrociati, ma hanno dimostrato, lei diciamo non è stata sanzionata perché lei ha dimostrato di essere un parlamentare europeo nell'esercizio delle sue funzioni. Che sarebbe uno strombazzare. Ok. Molto dubbia sta cosa, andremo a verificare. Cioè, a parte il fatto che il parlamentare europeo non credo che abbia, diciamo, una funzione al di fuori del Parlamento europeo. Ma poi non credo che il tuo ruolo sia provare i clacson, insomma. Però vabbè. Lasciamo stava. È stato bello pure il video di Salvini alla finestra. Quello è stato un mito. Ci sono stronzate. C'è uno che urla. Che cazzo fare. Che poi sì, effettivamente si trova a Milano. E ricordiamoci che era a Roma un mesetto fa. Poi comunque complimenti a quello che è riuscito a beccarlo sul terrazzo che faceva la diretta e gli ha fatto sti improvvisato. Non sono complimenti, quello lo segue. Quello lo segue, siccome che si è rotto a cazzo, ho detto, oggi lo vedo, la sua diretta nel momento clou, lo manda a fanculo. No, io mi vedo questo che tipo ha detto ai figli: oh, guardate la pagina Facebook di quell'imbecille, appena va in diretta avvisatemi. Sì, qualcosa del genere. Ma invece poi il contrappasso di questa storia di ieri, e cioè mentre eravamo tutti in estasi da Conte, da esternazione da presidente, anche un pochino, come dire, da abuso di posizione dominante, ma ci stava, l'abbiamo tutti quanti apprezzato. Cosa è successo? Sapete che, diciamo, l'italiano un pochino meno come possiamo dire, quello meno legato a certi regimi, ha scelto come piattaforma giornalistica di elezione il TG di Mentana, quindi il TG La 7, perché in tante occasioni si è dimostrato quello un pochino più equilibrato, quello un pochino più equo e diciamo attendibile. Però ieri Mentana ha detto una cosa che per me è stata gravissima, e cioè appena arrivata l'esternazione di Conte contro Salvini e contro la Meloni, ha detto più o meno testualmente: se avessi saputo che avrebbe fatto queste dichiarazioni, non le avremmo mandate in onda. Ma ora, un giornalista che ha il dovere, non solo il diritto, anche, della cronaca, si può permettere di dire una cosa del genere, secondo voi? Sì, ho scagazzato un po' fuori dal water. Perché ma mi sentite? Sì. Forte, okay. Chiaro. E anche perché sì, tu non la fai sentire, va bene, perfetto. Poi dovrai spiegare perché ci sono Matteo Salvini e Giorgia Meloni che rompono il cazzo con questa cosa. Cioè, comunque dovrai mandarla in onda. È comunque un caso politico, per cui devi comunque parlarne. E poi, guarda, la sua difesa è stata sulle prime, che se diciamo al telegiornale l'avrebbe mostrato, ma non ha trovato assolutamente opportuno e condivisibile il fatto che lui abbia esternato queste cose in una diretta nazionale a reti e a piattaforme unificate, e quindi sostanzialmente dice: io non l'avrei mandato in onda perché era un abuso della situazione. Però io, appunto, ancora una volta replico dicendo: proprio perché lui stava diciamo esercitando la sua funzione primaria a piattaforme unificate, lui intanto dice quello che vuole e poi se ne assume le sue responsabilità nelle sedi opportune. Però, tu hai solo una funzione, aspetta Marco, hai solo una funzione, che è quella di mostrare le immagini che vengono dal Parlamento o comunque dalla sede istituzionale. Non hai la possibilità di scegliere, di filtrare cosa far sentire e cosa o non far sentire all'ascoltatore, a differenza di quando lo fai nel telegiornale, dove puoi avere una linea editoriale. Quindi secondo me ha sbagliato tutta la linea. No, puoi anche fare una cosa del tipo a fine servizio, cioè io non lo condivido, e beh, come ha detto, e basta, lo faccio vedere, cioè lo ha detto, non lo condivido per questo e quest'altro motivo, e alzi le mani. Cioè, sì, ma non lo condivido, ci sta. L'avessi saputo, non l'avrei fatto andare in onda, è gravissimo. Sì, ma è anche una cavolata, perché poi comunque è una cosa che ha generato ecco, in effetti delle polemiche dall'altra parte, e giustamente ne avreste comunque dovuto parlare prima o poi, quindi inutile fare una censura che non c'ha senso, senza contare che lui dice no, perché questa è uno diciamo un'accusa, uno scontro verso l'opposizione. No, secondo me è proprio, non è contro l'opposizione, è proprio contro Salvini e Meloni. Vabbè, ma per forza sono mesi che tirano merda sul governo e su di lui. Esatto. Cioè, non è la prima volta che Conte non gliele manda a dire. C'era stato anche il famoso discorso alla Camera. non ce l'ha contro l'opposizione, ce l'ha proprio contro Salvini e Meloni, quindi è proprio personale la cosa. Vabbè, guarda, contro Meloni non lo so, ma Salvini in più occasioni, quando era presidente, era, scusami, quando c'era il Conte 1 e Salvini era ministro, era dell'interno, più di una volta lo ha scavalcato, l'ha esautorato, lo ha decontestualizzato, cioè voglio dire, c'aveva tutta una serie di motivazioni personalissime che in questa sede ovviamente non devono valere. Però insomma, a un certo punto, come dire, la pignatta era satura, è saltato il coperchio. La cosa brutta, per esempio, che dice anche Michela, così, no, volevo dire questa cosa: Mentana si è trasformato in un paladino della destra in questo momento. Ma suo malgrado, forse esagerato, dire, ma non perché lo voglia lui, ma perché ovviamente la macchina della comunicazione di Morisi è già partita in quell'ottica. Secondo me Mentana in questo momento è un paradiso di se stesso, cioè in questo momento cioè, sta cercando di, non so, di trovare qualcosa da difendere che non c'è. Non lo so, sembra più Arlecchino servito dei due padroni. Comunque, non so. In una situazione dove ci sono, c'è una trasmissione riunificata su piattaforme social, che cosa ti vai a togliere? Cioè, non c'è senso neanche, io comunque non l'avrei fatto vedere, che facevi? Stoppavi? E poi ti facevi vedere dopo, cioè mentre lo vedeva tutto il resto d'Italia, cioè non capisci. No, vabbè, ma al di là dell'aspetto tecnico della cosa, la questione è proprio la presa di posizione. Non c'è proprio senso, cioè non, un'affermazione del genere in una situazione dove tutta Italia può vederlo, non soltanto da me dell'Urma, ovunque, non c'è proprio senso su questa affermazione. Proprio non, tecnicamente, materialmente, non c'è senso. Sarebbe comunque stata una cosa inattuabile. Cioè, però, ragazzi, una domanda: ma pure voi guardandolo avete avuto la sensazione che il fatto di fare nomi e cognomi sia stata una decisione che secondo me ha maturato sul momento? Cioè, secondo me, nella versione che ci aveva scritta o che si era scritto prima di andare in onda, secondo me era anche intenzionato a lasciarla sul vago. Secondo me gli sono partiti i cavalli mentre stava in diretta. Cioè, la sensazione mia è stata: oh, vaffanculo, lo dico, tanto ormai perso per perso. Ha tirato un 20, è uscito 20. Proprio 20. Quella pausa, sì, sì, quella pausa che ha fatto. Comunque, ieri era molto teso su sto fatto. Diciamo, alla fine, io che l'ho detto, l'ha detto, dettato. Discutibile, non discutibile che l'ha detto, non l'ha detto, eccetera, eccetera. Però il fatto è che lui l'ha detto proprio in estrema razza, cioè era disperato dal fatto che comunque lui sta mandando avanti sti trattati facendo su mazza a Taral. E per colpa di questi abbiamo fatto i nomi e cognomi, tutto, non dico saltasse, però comunque potevano compromettere decisamente tutti questi trattati molto delicati, questi paroloni esagerati, queste stronzate che andavano raccontando. Quindi davvero si è tolto i fatidici sassolini dalla scarpa, più che sassolini, dei sassoloni, proprio perché dice, e non proprio dalla scarpa. Sì, no, dalle mutande, dalle culo. Io mi sto facendo mazza a Taral a cercare di fare qualcosa che non coinvolga, che non sia il MES, ottenere comunque dei finanziamenti, un sostegno dall'Europa, e voi venite a cacocazze. Mo adesso vi smerdo davanti a tutti. Anche io l'ho vista una cosa che davvero l'ho vista come se, cioè, come se in quel momento fosse filtrato, come se abbattesse quel filtro proprio mentale, dire no, cioè quella piccola pausa proprio che chiude quasi gli occhi. Anche io più o meno infatti l'ho ascoltato, l'ho visto due volte, però appena l'ho visto l'ho rimesso indietro di 30 secondi per vedere proprio, non so quanto davvero, forse voleva dirlo, però comunque ha fatto fatica, cioè comunque gli è costato comunque uno sforzo, sapeva quello che sarebbe andato incontro, l'ha fatto con consapevolezza, diciamo, anche se gli è venuto all'improvviso, comunque ci ha pensato, ha detto mo l'ho detto, perché poi ha continuato con no, mi piace che hai fatto sta cosa, la lie to me, che sei andato a leggerti il linguaggio corporeo di Conte. Cioè, ti vedo che lo guardi e fai mai scrollata di spalle asimmetrica, sorriso di lato, ok, l'ha deciso adesso. Che poi tra l'altro ricordiamoci che il presidente Conte, al di là del fatto che ovviamente non ha un particolare background politico e diciamo il pelo sullo stomaco in quell'ambito gli sta venendo adesso, al contrario è un avvocato, quindi voglio dire, è uno che le parole... È un professore di diritto e tra l'altro è il direttore di una delle riviste giuridiche più quotate in Italia. Esatto, cioè lui le parole le sa pesare per professione, ed è anche probabilmente una delle poche cose che in questo periodo ci sta salvando in ambito europeo, perché la capacità di mediazione che può avere in ambito istituzionale europeo è maggiore di quella che avrebbe avuto un Di Maio al posto suo, un Salvini o chiunque altro. Quindi cercando di dare anche onore al merito per quello che è possibile, non farlo lavorare ostacolandolo in tutti i modi più biechi in un momento grave come questo, secondo me non ce lo dovremmo aspettare da nessuna opposizione decente. E invece loro continuano, pur di fare campagna elettorale, che è qualcosa che fanno perennemente da 2 anni. Però sanno fare solo campagna elettorale, questo è il fatto. Sì, esatto, è quello il problema. Cioè, anche se c'è, voglio dire, in ballo la salute degli italiani, se ne fottono. E quello dovrebbe far pensare. Sì, sì, questo indica davvero la profondità della loro etica e morale. Proprio. Comunque, in questa situazione di merda, di gran merda, loro continuano a fare, come hai detto tu, campagna elettorale. Cioè, quanto hanno a cuore gli italiani loro? Anche davvero? Perché ricordiamoci che loro sono in una posizione idilliaca. Perché da questa opposizione possono dire il cazzo che gli pare, possono veramente proporre gli scaldabagni con le ali, le cose più inutili o più infattibili le possono proporre. Fanno fomento populista e poi ovviamente non dipende da loro farle o non farle. Ma guardate, in realtà basterebbe avere dei giornalisti che fanno domande, perché se ci fate caso, Floris, che voglio dire, c'ha tutti i difetti che c'ha, Formigli l'ha fatto prima di lui alla Set, Floris non è esattamente una macchina inquisitoria quando c'ha gli ospiti davanti. Ha un suo modo, non in casa, però ha il suo modo. L'ultima volta che l'ho intervistato, che si parlava del fatto dei 2000 euro a persona della Meloni, Floris l'ha fatto parlare e alla fine ha detto: io però vorrei farle una domanda, ma lì i soldi dove vorrebbe prenderli? Ha tergiversato e Floris ha risposto: no, ma io vorrei proprio sapere, cioè lei i soldi dove li prenderebbe? E Salvini si è riuscito con la frase: no, vabbè, io li chiederei agli italiani. Eh sì, poi da lì tutta una serie di cose, cioè. Non li possiamo chiedere in Europa, però. Cioè, infatti, mi vuoi fare la patrimoniale? Perché cioè, c'hai due modi per chiedere agli italiani: fate i versamenti spontanei se potete, e vi lascio immaginare quanti possono e quanti lo farebbero. Fai una patrimoniale su chi ha reddite di, legati a proprietà immobiliari, o c'ha talmente tanti soldi in banca che campa di interessi, oppure li devi tassare. Ma qual è ovvio che la più poi opportuna? Il meccanismo che prevale in questi casi, perché il neoliberismo, così come la destra un po' più a destra, non toccherà mai il ricco. Il principio è: tassiamo il dipendente, c'è poco da fare. Tra l'altro, a proposito di tassare, Del Rio del PD se è uscito con una cosa del genere e un altro po' se lo magnano. Cioè, lui ha proposto di tassare i redditi superiori agli 80.000 euro annui e di tassare solo l'eccedenza. Ovviamente scandalo, questa cosa è stata vista anche da elettori di sinistra come una cosa ideologica inappropriata in questo momento. Sì, perché in realtà prenderesti pochissimo, cioè prenderesti più di 1 miliardo, che in questo momento, scusate l'espressione, te lo fai a brodo, e comunque scontenti una fascia elettorale che comunque ha un suo peso. Però vedi, io credo che se però mettiamo è una cosa simbolica, più la comune, dice stata. Scusa? Più la reazione del PD è stata eclatante da questo punto di vista, forse più che non lo so. Sì, sì, ma a me è dispiaciuto, perché io mi rendo perfettamente conto che in termini poi di numeri pratici non è un ricavato che risolve il problema. Però mettendo a fattor comune tutte le cose che si potrebbero fare e che sarebbe ora di fare, e quindi ci mettiamo questa. Attenzione, vi devo interrompere perché il bambino di fronte ha fatto volare del palazzo di fronte, non quello del terrazzo, ha fatto volare il pallone oltre la strada ed è stato recuperato dal mio vicino di casa, che glielo ha ritirato, però toccandolo con le mani, e quindi ha infettato sicuramente il bambino. Marco, stanno facendo attività sportiva, devi fare dell'azione. Telefono alle guardie che tanto stanno a 500 metri. Ma sono in proprietà privata, però, e questa è la cosa. Sono dentro la loro proprietà, quindi possono farlo tranquillamente. Però il vicino che stava passando per strada, che ha raccolto il pallone, l'ha fatto a mani nude, e quindi ha infettato sicuramente il bambino, che pagherà lui e tutta la sua famiglia questa piccola disattenzione. A voi lo so. Può darsi che il pallone era stato cosparso di amuchina prima, quindi in questo caso forse il bambino viene sparso di amuchina quando rientra in casa, non possiamo saperlo. E gli verrà fatta ingerire della mucchina, spero, così. Assolutamente, e respirare. Perché i polmoni, sappiamo, sono quelli che vengono colpiti. Amuchina is the new olio di ricino. Olio di ricino. Beh, no, dicevamo, comunque, io credo che se mettiamo a fattor comune tutte le manovre che si possono pensare di mettere in campo per risolvere la crisi economica che incombe, quindi appunto tassare determinati redditi, fare una patrimoniale per quel famoso 1% di popolazione più ricca del paese, fare una lotta reale ed efficace all'evasione fiscale e così via, tante altre cose. Uno più uno, diciamo, una nocciolina alla volta, facciamo un sacco di noccioline. Ma se ogni cosa non viene fatta per il principio di farne un'altra che sarebbe più efficace, non si farà mai niente. E questa volta in particolare non si può rimanere così inermi e così inerti come fa il PD per atteggiamento da 10 anni. Ma io in realtà sul PD ho tantissimi dubbi. Ma più che altro penso che ci vivano ormai così tante anime diverse che non si accocchiano più tra di loro. Nel PD c'è stato anche Calenda, che voglio dire, gli puoi fare tutte le critiche che vuoi, ma proprio una persona di sinistra non mi è mai sembrato. Anche se devo dire, se vi capita su Twitter, ha dato una spiegazione del MES attuale, com'è quello che dovremmo avere col coronavirus, che è fantastica, cioè molto chiara, aiuta a capire come funzionerà molto meglio di tantissimi altri articoli che ho visto in giro. Cioè veramente il PD ha ospitato da Speranza fino a Calenda. Ha ospitato Renzi, non credo che dobbiamo aggiungere altro, no? No, per carità, cioè, che però tutte queste anime particolari a un certo punto, come dire, svelano la loro posizione, e poi quando si mettono in proprio scopri che in realtà vivevano di luce riflessa, perché alla fine lo stesso Renzi arriva al 2% di share elettorale se va bene. Sì, no, però posso fare, cioè questo è un dubbio che mi è sempre rimasto nella vita. Renzi, dopo la mega sconfitta del referendum, dopo essersi dimesso anche da segretario del PD, si ripresenta alle primarie con tutta l'intenzione evidentemente di non vincerle, ma di dare una dimostrazione, eppure quelle le vinse. E quando è uscito dal PD, quando ha fatto esattamente quello che rimproverava ai suoi avversari interni, a quella che viene chiamata la ditta, è là che si è bruciato. Però se avesse continuato all'interno del PD, lui le primarie le aveva rivinte anche dopo quella sconfitta gigantesca al referendum. Quella è un'analisi molto complicata da fare, secondo me. Vabbè. Okay, non è questo. Come si dice, Renzi, e qua chiedo aiuto al lobby perché non ricordo bene il detto campano, ma è tipo entra di lungo e si mette di chiatto, com'è? Trasi di street e fai di chiatto, sì. Entri di street, non riesco a tradurla, cioè è intraducibile. È intraducibile. Vabbè, la sostanza è che ovviamente lost in translation. Esatto. Anche in questo momento lui sta nella posizione dove può avere più visibilità, a prescindere dal fatto che non può, come dire, proporre o produrre risultati proattivi. Ovviamente, mettendo i bastoni tra le ruote dall'interno della maggioranza, ottiene una visibilità. È l'unica cosa che può fare, perché col suo 2% nell'opposizione non sarebbe nessuno. Nella maggioranza, se si accoda al pensiero comune, non sarebbe nessuno. Quindi che fa? Si mette a fare il contrario di quello che la posizione gli suggerirebbe. E poi chi se ne frega del paese. Però vabbè, questa è una mia ipotesi, insomma una mia opinione. Salutiamo anche Pier G, che nel frattempo ci ha raggiunto. Oh, io sto un po' tergiversando. Sto un po' tergiversando perché ovviamente tra qualche minuto usciranno i dati e cerchiamo di capire se siamo ancora nel trend avanti piano degli ultimi giorni o se magari ci sarà qualche notizia un po' più positiva. Come dice anche Gianluca Sansò, trase sì che se mette chiatto, quindi più o meno l'avevamo indovinata. Volevo tergiversare parlando anche un pochino di dolci, lo dicevamo prima, perché sennò veramente facciamo le solite puntatone di tribuna politica fin troppo serie e non riusciamo a tirar più fuori l'anima allegra di Runtime e di OGM in particolare. Visto che ieri si parlava nelle nostre chat pubbliche, in particolare sulla chat Morti di Bestemmie, di pastiera. E visto che insomma la quota campana di questo programma, ma anche della nostra chat, è piuttosto viva, parliamone anche oggi, la pastiera. Che tra l'altro è il dolce pasquale per definizione. Ormai è sdoganata. Intanto ci saluta anche al 9K, e dicevo, la pastiera è sdoganata anche a livello nazionale ed anche a livello annuale, si trova più o meno sempre nelle pasticcerie, però è il dolce di Pasqua per definizione. Ci sono, abbiamo capito, varie scuole di pensiero sulla pastiera, con o senza cannella, per esempio, con o senza canditi, per esempio. Vorrei chiedere a ognuno di voi se la mangia e come la preferisce. Vorrei iniziare da quello più difficile, Marco Gualdi. Cosa? Ripetimi. Sto cazzo! Sempre e comunque. La pastiera, Marco, la pastiera. La pastiera, bella, bella la pastiera. Che vuoi sapere? Ti piace, la mangi? Sì, sì, la mangio. E... va bene. La digerisco anche, sì. Complimenti. Sapete poi che fine fa, vorrei sapere che fine fa dopo che l'ho digerita. No. Come avessimo accettato. Ok, perfetto. No, sto vedendo un video che su Facebook su Conte trasformato in personaggio di Final Fantasy che lancia la... Babu Zero. No, no, è Babu Zero, sì, è una Samon, l'ho vista pure io. No, okay. Non l'ho vista, no, no, la voglio vedere ora. Sta su Facebook. Aspetta che te la metto su da qualche parte. Però c'è un errore tecnologico. Quella è una Samon, però fanno vedere che lancia la Limit, cioè che va in Limit e gli parte... ragazzi, fermi tutti. Dobbiamo fare runtime per il sociale. Ovviamente nel frattempo Simone ci ricorda che la pastiera fa schifo. Però Piergi ci fa una domanda. A questo punto dobbiamo intervenire per forza, perché ci chiede: da quello che ho capito è una specie di crostata con la ricotta al posto della marmellata? Vabbè, no. Voi campani spiegate. La direzione è quella, ma comunque siamo molto lontani. No, no, è a base anche di grano o riso. Ci sono alcune alternative anche che la fanno col riso. Mia mamma la faceva sia col grano che col riso, ma ne sfornava, che ne sfornava decine e decine. Sì, la questione è questa: è un dolce molto più complesso di una crostata, molto più calorico. Nella ricetta originale gli ingredienti sono, al di là della pasta frolla, abbiamo lo strutto, perché il grano, tanta ricotta, vari aromi, quindi l'acqua di mille fiori o di fiori d'arancio. Poi si usa la crema, si fa una crema simil pasticcera, adesso non ricordo bene come chiamarla. Comunque una crema nella quale si mettono ad infondere durante la cottura anche le bucce, le scorze di arancia e il limone grattugiato, così si aromatizza ancora di più. E poi c'è la frutta candita. E di conseguenza, insomma, capisci che rispetto a una crostata è molto molto più impegnativa in termini di calorie e di lavorazione. Poi sì, quando la cuoci, siccome ci sono le strisce di pasta frolla sopra messe praticamente in trama quadrata, assomiglia molto a una crostata. Dice invece Girasole che proverà a farla col riso e non ce la farà assaggiare. Ma scusa, no, aspetta, Girasole, il problema non è il riso o il grano, nel tuo caso è la ricotta. Il grano lo puoi usare. Tanto comunque non ce la fa assaggiare. No, è che non ce l'avevi in casa il grano. Ah, ok. Stanotte fa un po' difficoltà. Sì, perché il grano per la pastiera è un po' complicato da trovare. Nei supermercati del centro-sud è un prodotto che trovi più o meno tutto l'anno. Ma siccome sì, praticamente è proprio già precotto nei vasetti. Esatto. Però magari lo compri su Amazon, però abbiamo scoperto che c'era tra i prodotti disponibili. Sì. Beh, lì ormai c'è veramente tutto, credo, no? Ormai. Una cosa, ma usciamo un po' dal tema dal tema pastiera, o ci vuoi raccontare qualche altra cosa? No, vabbè, vai. No, a Carmine, perché devo chiedere una cosa a Carmine. No, ditemi. Perché lui prima parlava di un altro tipo di pastiera, non so che... No, vabbè, io c'ho mia moglie che, quando non è impegnata con Michela a fare i podcast o le dirette su Facebook, ha fatto la pastiera. Ne ha fatta più di una. L'ha fatta con grano, crema di ricotta, gocce di cioccolato fondente e Grand Marnier, oltre a quella classica. Io ho provato questa variante e alla tenera età di 42 anni ho scoperto che sapore ha la pastiera, sia pure in variante, perché vi assicuro che in 42 anni non l'avevo mai assaggiata. È stata una bella esperienza, devo dire. Più o meno di Conte, genere, però, per fare un parallelo. Non lo so, perché devo dire, quando ho assaggiato la pastiera ho avuto tipo l'effetto, avete presente il cartone animato La ricerca della valle incantata, quando Piedino vede la valle? Più o meno ho avuto quell'illuminazione del viso, così. Conte è stato più, sì dai cazzo diglielo, è stata una reazione più rabbiosa. Invece la pastiera mi ha un attimo riconciliato col mondo. Ci ho anche fatto colazione stamattina, devo dire. Ma sì, tutto sommato scende giù. No, io ti volevo chiedere una cosa su Trump. Scusate, nel frattempo Shuren sulla chat di MDB ci segnala un articolo in cui praticamente Reuters riporta dalla Corea del Sud alcuni casi di pazienti guariti da coronavirus che risultano di nuovo positivi. Sì, in realtà non vuol dire che sta cosa stava girando un po' tra i medici, ne stavo parlando con il ramo medico della famiglia. In realtà il fatto che una persona guarita poi risulti negativa al tampone non vuol dire che è ancora malata o che non è guarita. È il tempo di permanenza del virus all'interno del corpo umano che cambia da persona a persona. È il fatto che una persona sia risultata negativa a un tampone e positiva a uno subito dopo non vuol dire che sia riammalata necessariamente, può semplicemente voler dire che non hanno riscontrato il virus col tampone precedente. Nota, il test col tampone è affidabile nell'85% dei casi. Quello di cui si sta parlando adesso, quello rapido, il sierologico, quello attuale sbaglia 7 volte su 10. Quello che sta testando la Diasorin in accordo col governo americano pare che abbia una percentuale di riuscita dell'80%, cioè stiamo parlando comunque di test che 15 volte su 100 sbagliano, 70 volte su 100 quello più sperimentale sta continuando a sbagliare, quello più preciso sbaglia 2 volte su 10. Cioè quindi comunque per quello che è la scienza sono margini inaccettabili. Lo so, però siccome siamo stati presi letteralmente in contropiede, per mo' questi stanno. Nel momento che ci avremo qualcosa di più efficace, meglio. Si cerca di compensare facendo più tamponi, più a distanza di più o meno, si cerca di mettere una pezza così. Comunque Marco, mi stavi chiedendo quell'articolo della CNN che avevo trovato stamattina. In pratica io vi consiglio, se vi sentite tristi per il livello politico italiano, di guardarvi le conferenze della Casa Bianca che vengono poi ripostate dai siti, io per esempio seguo CNN. Vi aiuta a capire che noi probabilmente siamo in ottime mani rispetto agli americani. In pratica che è successo? Questo è implicito, però non è, cioè, ci togliamo la sete col prosciutto, eh? Assolutamente, non è che mal comune mezzo gaudio, per carità. Però volevo dire, l'altro giorno Trump, che sta premendo tantissimo con la sua task force di medici per riaprire il prima possibile, ha continuato a dire che lui è confidente del fatto di poter sospendere il lockdown, che specifico non è imposto a livello federale, è una decisione che in realtà si potrebbe, però lui dovrebbe prendersi il diritto, tipo la calamità nazionale, dovrebbe fare una serie di robe un pelo a rischio, e avendo la Camera contro non è detto che ci riesca. Quindi in questo momento quello del lockdown nazionale è un consiglio, sono i singoli stati che decidono ognuno per sé. Comunque lui è confidente di poter far riaprire tutto quanto a maggio. Quando un giornalista gli ha chiesto: "Presidente, mi perdoni, ma st'idea di riaprire i primi giorni di maggio, sulla base di quale ragionamento le è venuto?" Lui si è indicato la testa dicendo: "Ci ho pensato io." Che stress. Calcolando che se vi andate a leggere le casistiche di morte negli Stati Uniti, bene non stanno. No, e sono ancora nella fase ascendente. Sì, non sono ancora arrivati al picco. Diciamo che potrebbe essere la bara, sì, scusate, il chiodo sulla bara di Trump, nel senso oppure non fisico, no, ma quello per le prossime elezioni, perché se lui riapre e vanno a picco di brutto, che c'è un grosso rischio, poi non so se lo votano. Vabbè ragazzi, c'è questa teoria. In realtà c'è un altro rischio, che se continua così le elezioni le posticipano e quindi lui resta lì ad interim. No, quello è improbabile. Però è tutto aperto, perché dovrebbero rimandarle, si riapre tutto. In realtà se seguite tipo i siti un po' più impegnati, tipo Politico, c'è questa teoria, che in realtà corroborata dai fatti, è che molti membri del GOP, quindi del Partito Repubblicano, stiano sostenendo con il proprio elettorato la necessità di non votare per Trump alle prossime elezioni, indipendentemente da chi sia il candidato della controparte, quindi dei democratici. È una delle analisi che sto leggendo, è che l'uscita di scena volontaria di Sanders dalle primarie va in questo senso, cioè quello di costruire intorno a Biden l'armatura del candidato che può andare bene anche a quei vecchi repubblicani che, in quello che è emerso dai Tea Party e dai movimenti dal basso che poi ha portato a Trump, non si riconoscono più. Se qualcuno di voi ha visto The Newsroom ha capito di che sto a parlare. Però, anche perché, ragazzi, ricordiamoci che in America ci sono due partiti, quello di destra e quello un po' meno di destra, un po' quindi meno di destra, esatto. Basta trovare il candidato c'è giusto, anche un duopolio. Attenzione. No, ma di fatto c'è il Partito Comunista. Ci sono anche i Verdi, se per questo, però non so se lo sapete, Jello Biafra, il cantante dei Dead Kennedys, è stato l'unico, credo, candidato alla presidenza degli Stati Uniti con il Partito Comunista Americano. Se vi è capitato nella vita, vedetevelo, perché c'era un documentario su sta roba, poi ve lo passo. Sento una suoneria di Cuphead in sottofondo. Sì, è il mio telefono, bravo che l'hai riconosciuto. È mio padre che vuole parlare con mia figlia. Scusate, uso la radio per lanciare un appello. Vai. Nonni, quattro videochiamate ai nipoti al giorno, a testa, basta. Perché mia figlia sta più a rispondere alle videochiamate che con noi. Ma è l'unica, sì, nipote della famiglia? No, c'è mio figlio, che però c'ha 3 mesi e non risponde al cellulare. Ok, che, quindi amore, capisci, questo è... che le attenzioni si catalizzano? Beh sì, decisamente. No, ma il problema è che la chiamano mio padre, poi mia madre, poi mia sorella, la zia, e poi gli zii dall'altra parte. Quindi abbiamo questo. Domani sarà tragica, che è anche giorno di festa. Sì, non ho idea. Valuta l'opzione di spegnere il cellulare. Modalità aereo, no, poverino, mi dispiace. Scusate, ragazzi, intanto per il social. I numeri li abbiamo. Ah, fatemi leggere, ancora non ho visto niente. Sì, in Lombardia non calano, sembra. Vabbè, però in Lombardia fanno molti più tamponi ora. Beh, ci diceva Piergi, ci raccontava, però, problemi abbastanza. Secondo, diciamo, me, però, il fatto di vedere i nuovi contagiati, che comunque dovrebbero diminuire, però in realtà qua non sappiamo neanche quanto rimane appunto attivo il virus. Dovremmo vedere i morti, come si chiamano, i dimessi dalle sale emergenza, dalle rinemissioni, sono quelle che poi contano, perché se tu fai 100.000 tamponi è capace che trovi 100.000 che sono già magari infettati da 3 settimane e non lo sappiamo. Marco, però fino a un certo punto, nel senso che c'è un numero che è il numero di malati assoluto, se questo numero è troppo alto, e comunque il fatto che ci siano tanti dimessi e meno morti non cambia lo stato delle cose, cioè finché il numero, sì, di malati è alto, capire, non puoi riaprire. Non ci fa capire quanti, sì, non ci fa capire quanto in realtà se stiano diminuendo i morti e quelli che finiscono in rianimazione, perché magari quelli sono malati, tra virgolette, da 3 settimane, sono di quelli che ci hanno la rossetta e poi dopo ritornano tranquillamente a fare la spesa, a vivere come se niente fosse, come neanche se ne accorgono. Però tu continui a fare i tamponi, continui ad avere nuovi casi che poi magari sono casi vecchi, e ti falsa comunque l'impressione. Secondo me bisognerebbe concentrarsi su chi finisce proprio in ospedale. Cioè, comunque è qualche giorno che il numero dei guariti è maggiore dei nuovi infetti, che era il segnale che stavamo aspettando per dire che siamo entrati nella fase discendente dell'epidemia. Beh, in realtà Borrelli sostiene che siccome c'è un incremento di casi sul giorno di 4.700 quasi, mentre ieri c'era stato un incremento di 3.950, il trend totale, quindi quello complessivo, è contando quindi guariti, deceduti e malati, è ancora in crescita. No, più in basso perché aumentano i tamponi. Sì, è anche vero quello, che ne stiamo facendo tipo il triplo adesso. Sì, sì, cioè, ma a proposito, dobbiamo mettere in conto che probabilmente ci sono il 70% dei lombardi, per dire, ma sto dicendo cazzate, sono infetti. Di quel 70% l'80% non lo sa e non si è mai, cioè non avrà mai delle conseguenze serie o conseguenze notabili. Però tu continui a trovarli perché continui a fare i tamponi. Però questo ci rende un'idea falsata. Sì, diciamo, ci sono effettivamente più malati, però non è che aumentano. Magari nella realtà sono stabili o magari stanno diminuendo, ma non abbiamo la, perché continuiamo a far trovarne sempre nuovi, magari vecchi, non so se sì, però il problema è che secondo questi parametri noi da casa non usciremo mai. Il problema di fondo è che in realtà noi ci stiamo continuando ad affidare al numero che leggiamo in base ai tamponi che vengono fatti, quando è molto realistico pensare che il numero dei contagiati o delle persone che se le tamponassi ora sarebbero rifiute, sono nell'ordine di un'unità di grandezza in più, se si dice. Quindi noi non sappiamo esattamente quanti infetti reali abbiamo. L'unica cosa che possiamo cercare di fare è contenere quel numero quanto più possibile fino a che si può. Poi, se volete un parere, se è vero che noi dalla settimana prossima riapriamo almeno gli studi professionali, perché quello sto leggendo. Le agenzie immobiliari sono studi professionali. Ah, ok, quindi tu torni a lavorare, Marco, vai. Non lo sei tu, Marco. No, non lo so, perché devi vedere il codice Adego su cui operate. Ci viene a vedere la gente di casa. No, vabbè, questo è un altro discorso. Ho capito, ma noi facciamo quello, cioè. possiamo entrare dentro le case della gente che sta in quarantena, cioè, scusate, vorrei vedere casa sua. No, infatti, il discorso è che voi non fate questo tipo di consulenza, e quindi, come dire, siete un po' un caso a parte. È chiaro che voi vendete un prodotto, voi non vendete un servizio, poi alla fine, per cui no, noi in realtà vendiamo un servizio, però, cioè, voi siete mediatori, non siete uno studio professionale in un certo modo. Siamo mediatori, noi vendiamo un servizio, vendiamo un prodotto alla casa dei proprietari. No, però intendo dire che non vendete una consulenza fine a se stessa. No, però se quel ti posso consultare, ma se non vedi la casa non comprerai mai. Dico, probabilmente non rientrate tra le categorie che possono riaprire. Non lo so. A prescindere, comunque, aperti o non aperti, il nostro lavoro sarebbe piuttosto, diciamo, minimal. Certo. Cioè, se presidio in ufficio, tutto sommato. Sì, preghiamo corrente. Pier G dice: io da martedì ricomincio a lavorare, ho finito i giorni arretrati di ferie, ma ricomincio a lavorare perché è previsto dalla tua professione che tu debba e possa lavorare, non perché te lo impongono al di sopra di una legge, no? Dovremmo sapere che lavoro fai, quello è. Lobby, intanto cosa hai condiviso, Unione Sarda? No, perché da lì l'ho trovato. Comunque non poteva mancare un intervento dal nostro carissimo signore De Luca. Vincenzone. Vincenzone, che ha detto: la tamponite è diventata una malattia. Il fatto che in Veneto hanno proposto di fare tamponi a tappeto a chiunque, le ha detto semplicemente che sta tendenza a voler fare tamponi su tamponi su tamponi è inutile adesso, cioè concentriamo i nostri sforzi al contenimento, a cercare di far stare la gente a casa. E peraltro mi girano delle foto da Vico Equense in cui è praticamente militarizzata. Vico Equense si trova sulla costiera Sorrentina, per chi non lo sapesse, praticamente ci sono carabinieri, poliziotti dovunque. È impressionante. Perché lui proprio ha detto che a Pasqua chi lo becca fuori, altro che lanciafiamme, proprio terapie medievali proprio. Vabbè, ma giustamente ci ha visto lungo l'articolo sulla Pontina del Messaggero che ho citato poco fa. Fondamentalmente è l'emblema. Nel Lazio non c'è questa, come dire, rigidità da parte degli amministratori nel fare un certo tipo, come dire, di esternazioni. Ed ecco là che la gente si lancia in autostrada per andarsi a fare la Pasqua a casa al mare. Sì. Non se può fa'. Vi dovete sta a casa. Tra l'altro, ero trovato subito la scappata. Ho visto un articolo di qualche tempo fa in cui delle spiagge, mi pare in Campania, e non solo, avevano lanciato questa iniziativa della libreria in spiaggia, nel senso che tu lasci i libri là di libera consultazione, praticamente poi li prendi, li lasciavi, te li leggevi sull'ombrellone e poi li lasciavi là. E subito volendo si era trovato una sorta di scappatoia al fatto delle librerie aperte. Beh, questo è giusto per fare una cazzata, però c'è qualcuno che ci ha creduto davvero. Giustamente Michele dice: tante categorie sono comunque chiuse, anche se non era richiesto che chiudessero, perché il lavoro non c'è e non fa una piega. Se le persone non girano, ovviamente tanti lavori saltano, e purtroppo è così. Ma anche nel mio stesso lavoro, che è digitale puro, per adesso un pochino di lavoro c'è. Però è chiaro che se passi mesi in casa a fare smart working invece di andare a cercare un nuovo lavoro, quando esaurisci quello contrattualizzato, poi che fai? diversi. Bella domanda, in effetti. Comunque, insomma, vabbè. Infatti, è per quello che i danni finanziari ancora non li abbiamo visti, ragazzi. Li vedremo. Sospirone. Abbiamo fatto tutte e due. Anche se a me dal punto di vista lavorativo sta andando bene, perché abbiamo un progetto che c'era finanziato dal comune, erano bei soldi, siamo riusciti a riconvertirlo in digitale, per cui dei soldi che praticamente erano destinati a un evento finale, delle cose più materiali, non servono più da quel punto di vista, per il finanziamento rimane, viene riconvertito che ci paghiamo meglio, diciamo così. Quindi, meglio così, dai, vabbè, diciamo un lato così, come dire, cerchiamo di consolarci quando è possibile. Sì, per quanto possibile. Vabbè, ragazzi, ma invece, poi per tornare all'argomento bomba di oggi, siamo anche più o meno arrivati alla nostra ora e mezza tipica. Però vi rendete conto che stamattina il poro Mattarella ha dovuto rispondere al telefono a Salvini? Sì. Sì, ma io me lo immagino, tipo, avete mai visto True Lies? La scena in cui lascia il telefono vicino al registratore che ripete sì, hai ragione tu, no, è proprio così. Il protagonista è intanto a farsi la doccia in un'altra stanza. Ma io penso che Mattarella in Camera Caritatis si è rienculati tutti più volte, perché mi dà l'idea che, insomma, sai, è chiaro, il linguaggio istituzionale prevede determinate formalità e determinati iter, però quando poi chiudono la porta e stanno tutti nella stessa stanza, io credo e spero che Mattarella si è rienculati più volte. Ma del resto, se si è anche creato questo governo di mediazione così rappecionato, è perché Mattarella a un certo punto ci ha messo del suo, e lo farà anche adesso. Sicuramente. Però sì, tieni presente, noi abbiamo avuto Mattarella che, scusate, ho sempre considerato, come posso dire, il Mattarella cattivo, perché il Mattarella buono, buon'anima, eppure. No, vabbè, c'ha il suo carattere, però tieni presente che probabilmente è vero che si rincula a saltelli, probabilmente non gridando, probabilmente non alzando la voce, esatto. Però probabilmente, che ti devo dire, con molta calma gli spiega che non è il caso di dire o fare determinate cose. Con la classe dell'uomo siciliano d'altri tempi. Sì, oppure tipo De Luca, quando vi spiega in dettaglio che cosa vi succede se non fate come dice lui. Vabbè, siamo lontani anni luce da gente come Pertini, che cacciò Craxi dall'ufficio perché si era presentato in jeans. Sì, no, gli disse: lei ora esce, si veste decorosamente e torna in questo ufficio. Lei ora esce. Ma tra l'altro pare che in realtà non l'avesse detto neanche sul serio, che lo volesse prendere in giro, ma l'avesse detto con un tono tale che Craxi ci ha creduto. Come disse una volta il nonno, proprio in vacanza, però mi sa che eravamo in Calabria, comunque il nonno di un amico ad un altro amico che aveva, non so se vi ricordate, nei primi anni 90 andavano questi jeans corti in estate, fin troppo corti per un maschio, no? Perché erano veramente quasi a cavallo del linguine. E il nonno di questo amico, guardando quest'altro amico, che si chiama Riccardo, badate questo dettaglio, lo guardò e gli disse: Francesco, tu mi devi fare un favore, ti devi mettere un paio di pantaloni aggiustati, perché con queste ti servire un cucchione. E più o meno il senso è quello. Dopo, quando chiudiamo, vi dico una cosa in riferimento a gente che mi ha chiesto. No, jeans corti, è una cosa peggio. Intanto Michela ci diceva che in zona Roma i positivi rispetto a ieri, alla rilevazione di ieri, sono aumentati. Vabbè, non ne usciamo, ragazzi. Pier G ci sta raccontando che nel suo lavoro, insomma, lui, allora, praticamente il 90% degli italiani sarà infetto, secondo me. 80% degli italiani sarà già infetto e non lo sa. Vabbè, vuol dire che questa malattia ha un decorso benigno in moltissimi casi, allora vuol dire che l'abbiamo percepita in modo sbagliato. Già lo sappiamo che è così, cioè nella stragrande maggioranza dei casi non te ne accorgi neanche. E allora usciamo tutti a vaffanculo, che stiamo a fare a casa? No, c'è il rischio che quello, che magari stiamo a fare una cosa che magari è inutile, cioè, quella, beh, certo, ai posteri la facciamo, sentenza. No, ma in realtà non sappiamo nulla. È la mossa più logica da fare, però non è necessariamente quella più giusta. No, in realtà il problema è che non è neanche quello. Il problema è che noi stiamo facendo tutto questo per mantenere gli ospedali ad un livello, esatto, di lavoro sostenibile, umano, sostenibile. Sì, abbiamo, noi, non stiamo, noi questo non lo stiamo facendo per evitare del tutto il contagio, perché non è questo il metodo, esatto. E non ci puoi arrivare, non è possibile, e soprattutto non ci arrivi se non vaccini tutti quanti, e il vaccino ancora non ce l'abbiamo. Quello che stiamo facendo noi è, stiamo cercando di gestire il numero di persone che arriva in terapia intensiva in modo che sia quanto più basso possibile. Quello ci stiamo riuscendo a farlo, perché se vi leggete i dati, abbiamo sempre meno pazienti in terapia intensiva. E dobbiamo sperare che continui così fino a quando la cosa, da qui a qualche settimana, due a tre, non rientra numericamente in una dimensione gestibile. Poi non è che torneremo come prima, cioè io stavo leggendo. Il problema è che queste due o tre settimane le stiamo citando da 6-7 settimane. Ok, io stavo leggendo quella che è la previsione in una grande azienda per come lavoreranno dopo, quando dovranno rientrare in ufficio. Comunque è previsto che ci sia lo screening della temperatura all'ingresso, che tu debba usare le mascherine, che le scrivanie saranno distanziate, che ci saranno i guanti sterili e il gel sanificante su ogni scrivania. Cioè avremo un periodo cuscinetto dopo questo che non sarà facile. Probabilmente riapriranno in qualche modo anche bar e ristoranti, ma ci avranno meno tavoli disponibili, nei bar ci entreremo a coppie, ci sarà tutta una serie di questioni da gestire. Probabilmente andremo al ristorante, ma non ci potremo stare un'ora a chiacchierare dopo aver finito di mangiare, ma dovremo consumare e lasciare i posti disponibili immediatamente. Per un po' avremo una situazione che secondo me ci porteremo per tutta l'estate, che non sarà quella a cui eravamo abituati. E lì poi io faccio un altro ragionamento, allora, perché al di là del fatto che si faranno riaprire queste attività per ovvi motivi di sostenibilità, ma poi chi ci va al bar o al ristorante, con quale stato d'animo? Cioè, se io devo andare al ristorante con la paura del contagio di quello che tossisce nel tavolo di fronte, col fatto che devo sedermi, mangiare, sbrigarmi e tornare a casa come anche fosse il ristorante cinese, a questo punto sto a casa, ormai sono consumo, talmente tanto abituato, e questo sarà un dramma per l'economia, sta gestione. Sarà un atto di consumo, diventerà un atto di consumo e non più un atto sociale per un po'. Poi speriamo. Ho capito, però la ristorazione, se gli togli la parte sociale, non ha un'utilità reale. Sì, ci può essere la volta che vuoi andare a mangiare al ristorante perché proprio non ti va di cucinare, o perché vuoi mangiare quella particolare pietanza che tu non fai. Però non basta a sostenere il mercato, secondo me, a sostenere l'economia del commercio. No, secondo me vedremo un grosso fiorire dei servizi di consegna a domicilio. Giustamente Pizzi pensa a cita il sushi. Giusto, pareva strano che tutto questo non avessimo citato il sushi. Senti, io sto vedendo nei locali della mia zona, conoscendo qualcuno che ce l'ha in franchising o il suo, si stanno tutti quanti organizzando per fare le consegne a domicilio che prima rifiutavano di fare. C'è un ristorante molto famoso a Polignano a Mare, specialità pesce, che non ha mai permesso di portare via i piatti, non ha mai fatto catering, non ha mai fatto niente di tutto questo. Ora è iniziato. Beh, se vogliono lavorare è l'unica. Sarà quello. Cioè, secondo me andremo verso il locale che diventerà un punto di consumo. Se vuoi farti la roba social, tra virgolette, te la ordini a domicilio, o pranzi con gli amici o ceni con gli amici a casa tua. Ammesso che si potrà fare anche questo, tutto talmente. Oddio. Come dire? Boh. Vedremo. Lo scopriremo solo facendoci tamponi. Dice Michela, parlando dei servizi a domicilio, dice: ma essendo nell'ambito mio figlio, vi assicuro che non ci rientreranno neanche dei costi. Dipende, se vendi il prodotto a prezzo di listino, la differenza nella fase di trasporto è compensata dalla mancanza della fase di servizio in sala, quindi non lo so quanto ci perdono, e se lo fanno probabilmente neanche ci perdono, non lo so. In cassa integrazione probabilmente. Se avvererà il sogno quelli che lavorano proprio. No, scusatemi, sto dicendo, pure se avvererà il sogno di mia moglie, che sogna che esistano i cuochi a chiamata, cioè devi organizzare una cena, paghi il cuoco, viene, ti cucina a casa. Ma quello il concetto esiste, il cuoco a casa. Che diventi più, come posso dire, più diffuso. Lei vorrebbe avviarla come attività, sì. Più economica, sì. Comunque, breaking news, il vicino di casa del terrazzo, è importante dirlo, con un gesto repentino ha riempito l'innaffiatoio e ha cominciato a innaffiare le piante con diciamo anche una certa eleganza, muovendosi su tutta quanta la fascia, insomma, quindi ottimo, ottimo movimento, dobbiamo dargli meglio di questo. Nel frattempo il negozio di Bangladesh continua a vendere prodotti, peraltro non ci sono novità, vi restituisco la linea. Grazie. Grazie Cibali. Vabbè ragazzi, a proposito di linea, è ora di andare a non mantenere la linea e di andare a cominciare a preparare la cena, che dite? Eh sì. Soprattutto quelli che sono più a nord dell'equatore. No, dell'equatore proprio. Ah, del Po. Io sto ancora giù al Po, quindi. Ah, è vero, sì, tu sei ancora in zona. Sì. E allora ragazzi, Cesarini, permettetemi un attimo quindi di mettere l'asset doveroso. Perché è il momento di cominciare a salutare tutti gli amici che ci hanno ascoltato questa sera, a cominciare dai padroni di casa che oggi si sono calati nei panni degli ascoltatori, Michela De Paola e Simone Pizzi, che salutiamo. Salutiamo Al 9000 che ci ha raggiunto da poco, così come Lucio Plantone, come Girasole, come Pier G, come Davide Gatti, come il Pupo che stiamo appena sentendo in diretta. È venuto a salutare. Ha fatto benissimo. Ciao Pietro. Ciao bello. Ciao. E salutiamo Gianluca Sansò e tutti gli altri. Sto scorrendo la chat come al solito. Oggi veramente i messaggi sono stati tantissimi, quindi ci metto un po' a trovare tutti. Vi saluto calorosamente e complessivamente, così come saluto chi mi ha fatto compagnia questa sera in questa diretta, come al solito Covid Edition di Runtime e di OGM, oltranzisti gastricamente maleducati, il maleducato capo di casa Marco Gualdi. Ciao, vi saluto rapidamente. L'ultima azione prima di chiudere: un tizio ha parcheggiato la propria macchina, come al solito, contromano sulla zona marciapiede di fronte al negozio, uscendo con due bambini piccoli sui 3-4 anni che si è portato dietro, quindi è una cosa molto, molto sicura. E questa è stata l'ultima azione. Secondo me, io in questa edizione dichiarerei vincitore di casa. Che ho visto più attivi. Attenzione. Sento Pizzi. Ho le allucinazioni. Ma ti sentiamo come se ci stessi chiamando dalla cabina del telefono. Sto dalla cabina del telefono. No, non ti sentiamo. Non ce la Simone. Facciamo bene, malissimo. Simone. Sentiamo a tratti. Come se avessimo gradito. Come sei, Simone? Come sei? Abbandonato la conversazione. No, è probabilmente per entrare con l'altro. Dichiarerei vincitori i vicini, appunto, che hanno fatto telefonate, hanno affiato, hanno fatto diverse cose. Cioè, sono stati. Dichiariamo i vincitori di questo. Pronto, dici! Ho detto pronto. Quando io dico pronto, dovete essere pronti. Bravo, vedi. Vabbè, volevo solo salutare. Bella. Perché alla fine mi sono riposato, l'ictus è passato, mia moglie non è più preoccupata, quindi tutto a posto. Vabbè, lei già pensava all'assicurazione sulla vita, Simone. Simone, ti chiederei, visto che sei qui di passaggio, guidaci sui prossimi appuntamenti di Runtime. Sì, assolutamente. Domani alle 17 c'è Michela con Mono, quindi musica e parole e musica. E praticamente lunedì, non mi ricordo se la sera alle 21, c'è un'altra trasmissione che si intitola Di spade, cavalieri e morti ammazzati, che è una cosa interessante. Parleremo con il nostro amico Marion di spade medievali, di sbudellamenti, di guerre, di cavalieri, di picche, di spade. Marion, che ultimamente ci deve spiegare come mai non ci sta ascoltando in diretta, però poi glielo chiederemo quando sarà. No, dice che ci ascolta, lui ci ascolta. Si cela. Va bene, grazie Simone, grazie a te, grazie anche a Michela che ci sta ascoltando. Mi manca salutare ancora il maleducato, lo psico maleducato Lobby Frontali. Vi saluto con l'altra mano e stasera c'm'drrp. E a proposito di rap, anche il divulgatore maleducato Carmine Puccio Console. cercate su Google cosa si festeggia oggi. Io non so che cosa cenerò, però ieri sera ho mangiato una pizza buonissima. Però la notizia che viene fuori, se fai questa ricerca, è del 17 marzo 2017, per non la cronaca. Non ti interessa, giocatevela lo stesso, secondo me funziona. Va bene ragazzi, allora anche io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima diretta e un abbraccio da OGM.